La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 21 marzo 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Per mettersi in contatto con la redazione 333 180 94 94 per i vostri sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le vostre mail. E in questo sabato parleremo di energia nucleare. E ne parleremo con Nazareno Gottardi, fisico nucleare, lavorato al Max Planck Institute, al Politecnico di Milano, ma soprattutto si è occupato per ben 50 anni di fusione e fissione termonucleare. Buongiorno Nazareno. Buongiorno. Nazareno, all'inizio abbiamo sempre 100 parole iniziali per descrivere la puntata e quindi ti vorrei chiedere come avviene una reazione termonucleare all'interno di una centrale nucleare. Dunque, comincio a correggere, la parola termonucleare non si adatta alla faccenda nucleare. Qui si tratta di fissione. Le reazioni termonucleari sono quelle che servono per far fondere dei nuclei leggeri e ottenere energia, esattamente all'opposto di quello che si fa con la fissione. Nella fissione normalmente cosa succede? Succede che questi atomi di uranio-235 non è il solo elemento fissionabile. Quando vengono colpiti da un neutrone, generalmente un neutrone abbastanza lento, di bassa energia, si spezzano, cioè si fissionano, creano due frammenti molto grossi e alcuni neutroni da 2-3, dipende dalla configurazione del reattore. Ora, questi neutroni che si liberano possono generare altre fissioni. Ora si può studiare appunto la configurazione del reattore in maniera tale che non ne vengano troppe. Nella bomba atomica si lasciano andare tutte, allora abbiamo questa grande esplosione, ma nei reattori questo non succede perché tutto viene controllato minuziosamente, il sistema è fatto perché non diverga. Naturalmente questa è una cosa che fa spaventare il pubblico, ma veramente i reattori sono sotto controllo. So se questo è un po' troppo forte, ma questa è la realtà attuale e basta, non so cosa dire di più. No, non devi dire nient'altro perché tutto il resto lo diremo nel corso della trasmissione. Intanto abbiamo capito che insomma il nucleare si divide in fissione e fusione e tutto questo ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Nella prima parte parleremo fondamentalmente di EPR, che saranno le centrali nucleari nuove che verranno costruite in Italia, e nella seconda parte invece parleremo un po' dei costi, della sostenibilità, del rapporto costi-benefici all'interno di questo nucleare. Quindi resta in linea, sentiremo un po' di musica e poi torneremo subito in studio. e bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi parleremo di energia nucleare. Nazareno, abbiamo detto che nella prima parte della trasmissione parleremo fondamentalmente di EPR, il reattore nucleare europeo ad acqua pressurizzata. Visto che gli ascoltatori di Caccia Fotone sono abbastanza con l'orecchio fino, cerchiamo di spiegare esattamente che cos'è EPR, quindi esattamente come funziona questo EPR, questo nuovo reattore di energia nucleare. Dunque, non so neanche dire se possiamo chiamarlo nuovo. In effetti è per me una elaborazione, un'evoluzione rispetto al vecchio PWR, cioè quelli ad acqua a impressione. Quelli della Westinghouse, tanto per essere chiari. Per essere chiaro, uno di quelli, va bene, cioè la maggior parte dei reattori che adesso viaggiano in Europa, che hanno un certo iter di affidabilità, a cui almeno io credo. Sì, quindi è un'evoluzione di questi, quindi dovrebbe dare un miglioramento rispetto ai quelli vecchi, sia per la protezione, per la sicurezza e anche per aumentare i rendimenti rispetto agli altri. Riusciresti a descrivermi esattamente come funziona? Perché per esempio il reattore EPR sfrutta del combustibile, almeno può sfruttare del combustibile che non è solo uranio. Beh, questi qui già succedeva nei quelli che si chiamavano MOX, cioè dei vecchi PWR, perché c'è sempre stato miscelato un po' di plutonio insieme all'uranio e dipende dalla configurazione interna del reattore. Anche questa è un'eredità diretta della generazione precedente, quindi cosa succede in pratica? Soltanto questo, non so, devo parlare un momentino sulla come succede la fusione. Esatto, sì. Ecco, all'interno del reattore c'è dell'uranio e non necessariamente solo l'uranio, visto che l'hai già detto, ci potrebbe essere il plutonio che è stato recuperato dagli elementi di combustibile irradiati precedentemente. Quello che succede in un reattore normalmente è che un neutrone colpisce un atomo di uranio-235, questo si spezza e crea degli altri neutroni. Questi neutroni a loro volta possono fare altre fissioni. E voi potete immaginarvi, quindi abbiamo una reazione a catena. Durante questo spezzarsi una parte della massa si converte in energia. Che poi quell'energia effettivamente che viene prodotta. Esattamente, che è l'energia termica che noi andiamo a trasformare in energia elettrica attraverso appunto lo sfruttamento del calore prodotto nel reattore. Questi neutroni però potrebbero anche semplicemente entrare in un nucleo di uranio-238, che è la maggior parte dell'uranio contenuto. Ti blocco un attimo, uranio-235 e uranio-238 sono due isotopi dell'uranio, giusto? Esattamente, cioè sono due isotopi dell'uranio, uno è fissile, quell'altro è fissile ma ad altre energie, e questo appunto fa parte di altri tipi di reattori che non vogliamo toccare ora. Ora, però il 238 può appunto catturare un neutrone, e se cattura un neutrone diventa un neutunio 239 che però dura pochissimo e dopo un po' decade diventando il famoso plutonio 239. Questo plutonio 239 ha delle caratteristiche molto simili all'uranio 235, quindi è fissile ed è infatti quello che è pericoloso perché è facilmente separabile chimicamente dal resto e si possono fare le famose bombe. Ok, perfetto. Senti un attimo, quanti reattori EPR ci sono in questo momento nel mondo? Dunque, grosso modo non lo so, ma credo che siano tre. Ma due, quelli che conosciamo, almeno che sono portati in mano del mio tipo di lavoro, di salvaguardia, era appunto l'EPR che è in costruzione e poi quell'altro in Finlandia. E ci sono delle grosse differenze fra questi due o sono praticamente dei gemelli? Dunque, quello che uno cerca di essere un miglioramento dell'altro, ma questo fa parte di questo tipo di nuova generazione dove ognuno cerca nel prossimo modello di mettere qualcosa in più. Questo non deve spaventare perché è semplicemente migliorare le caratteristiche, insisto, per secondo me, dei vecchi PWR, che sono per me sistematicamente sicuri intrinsecamente. Recentemente c'è stata una grossa polemica in Francia sul reattore di Flamanville perché pare che crei delle produzioni di iodio 129 superiore a quelle dei reattori PWR tradizionali. Questo è vero oppure è falso? Onestamente non lo so perché non mi sono occupato molto di questa parte del waste, dei prodotti di fissione che vengono fuori. Comunque sia, qualunque cosa sia, insisto che il sistema è veramente fatto e pensato per catturare tutta questa roba, e già questo problema, anche se dovesse produrre in più, non cosa cambia? Già di per sé stesso, adesso sembra che sia un po' negativo quello che dico, di per sé stesso abbiamo prodotti di fissione che sono purtroppo il lato negativo dell'energia nucleare, è quello lì. E il fatto che si sia a discutere su delle piccole differenze non serve a niente, ma sporco è sporco. Quindi facciamo in modo che il sistema lo contenga. Mi sembra una polemica inutile andare a vedere quant'è la percentuale dell'uno dell'altro. No, è giusto, visto che era esplosa la polemica, visto che tu ti occupi di energia nucleare da quasi 50 anni, era giusto che ne potessi parlare tu, e visto che, insomma, se non erro, hai lavorato proprio al nucleare di Flamanville, giusto? No, faceva parte del gruppo di reattori francesi di cui ero responsabile per la salvaguardia, non ci ho lavorato direttamente. Comunque conosco tutti i reattori francesi, ripeto, sono di questa generazione, la vecchia generazione di PWR, che sono safe. E insisto, il reattore di Flamanville è qualcosa di molto più sofisticato, ma non nel senso della pericolosità. Hanno cercato di migliorare tutte le questioni di sicurezza. Perfetto, tu ti sei occupato anche di salvaguardia, giusto? Sì. Quali sono i problemi più grossi che ti sei trovato a affrontare? In Europa, col nostro sistema di controllo di salvaguardia, possiamo dire che non abbiamo mai avuto dei problemi eccezionali, qualcosa di speciale, niente, al massimo qualche volta non sono state seguite le norme, però sempre contenute e controllate dal nostro sistema. Forse per quelli che non sanno cos'è la salvaguardia, è una cosa estremamente importante, perché è proprio cosa si fa? Si guarda benissimo che tutto quello che è entrato nei reattori per essere utilizzato, per produrre energia, poi riesce come prodotti di fissione o transuranici e roba di questo genere, e lì c'è dentro la possibilità di tirar fuori, come per esempio il plutonio, del materiale che serve per fabbricare delle bombe. Ecco perché la contabilità è estremamente precisa, si lavora veramente addirittura sui milligrammi quando si parla di decine e centinaia di tonnellate di combustibile. Essere sicuri che questo materiale rimane sicuro. Senti, volevo fare un accenno di un reattore prossimo, sarà ITER, un reattore a fusione che forse verrà costruito chissà quando ci saranno i soldi, che permetterà insomma un abbattimento sostanziale delle scorie e strutturare un reattore come se fosse una stella che sta generando energia. Quali sono i vantaggi di ITER rispetto a EPR? Perché ieri nel nostro fuori onda parlavamo proprio del fatto che il problema non è la terza generazione, bensì la quarta, giusto? Ecco, ma ora bisogna che faccia un po' di chiarire qualche concetto. Benissimo. Dunque, ITER non è un reattore nel senso stretto del termine, sì. È completamente diverso, è un reattore sì, perché c'è una reazione dentro, ma la reazione che viene da è una reazione di fusione. Là si prende il trizio, lo si fonde insieme al deuterio e si ottiene alla fine dell'elio ed un neutrone. Ora, questo vuol dire semplicemente non c'è nessuna fissione, cioè noi fondiamo degli elementi leggeri per ottenere uno più pesante e una grande quantità di energia, perché la differenza di massa è piuttosto notevole. Ora, è tutto un concetto diverso, e nel senso ITER sarebbe la soluzione, poi però faremo fare una critica per vedere qual è la situazione reale di questa macchina, sarebbe la soluzione perché non ci sono prodotti di fissione. Non c'è assolutamente niente, è un concetto completamente diverso, effettivamente è quello con cui funziona il nostro Sole. Si fanno fondere assieme degli elementi leggeri per ottenere un elemento più pesante, però che non è così pesante come gli elementi che sono stati messi dentro, e questa differenza è quella che produce l'energia. La fissione è al contrario, si ottiene energia spezzando un nucleo che ovviamente è molto pesante. Senti Nazareno, resta in collegamento perché parleremo di EPR, parleremo del nucleare qui in Italia, visto che il governo italiano ha poi strutturato un programma nucleare che prevederà 4 nuove centrali nucleari EPR proprio nel territorio italiano, e là vedremo un po' il rapporto costi-benefici, vedremo se il nucleare italiano è fattibile, soprattutto discuteremo un articolo che è uscito proprio su internet, un tuo articolo, in cui hai una posizione particolare. Tu sei un nuclearista, però dici che il nucleare in Italia non lo possiamo fare, e allora di questo ne discuteremo dopo, ne prosegue la trasmissione. Adesso andiamo ad ascoltarci un pochino di musica e poi torniamo subito in studio. Tell me about the faces here. bentornati a Caccia al Fotone. Quest'oggi stiamo parlando di energia nucleare. Nazareno, se permetti ti citerei questo articolo che hai scritto peraltro tu, in cui tu scrivi: secondo me, supposto che ci si possa mettere a fabbricare centrali nucleari a sprombattuto per essere pronti a sostituire combustibile fossile per il 2050, la soluzione più pratica sarebbe quella di costruire proprio quelle centrali che tra 20 anni sarebbero obsolete. Mi spieghi questo concetto? Sì, per me è questo, perché c'è la famosa quarta generazione, sono dei reattori che per me, vecchio nuclearista, a me ha sempre fatto paura. Fanno paura perché viaggiano ad altissime temperature. Voi, questi reattori che noi abbiamo normalmente, i PWR e l'EPR, non si discosterà di molto, sono come, immaginate, come delle enormi locomotive, però con temperature del tipo delle locomotive, che vengono però al posto scaldate dal carbone, vengono scaldate dal combustibile nucleare. La differenza sostanziale, lì naturalmente, a parte le faccende delle scorie, eccetera, però sono intrinsecamente sicure perché abbiamo almeno 6.000 anni di reattore di esperienza, cioè mettendo insieme tutti i reattori che si conoscono. Ecco, la quarta generazione invece è quella veramente di cui si parla, veramente io quei reattori lì non li amo, mettere dentro dell'uranio in bestie che viaggiano. Fermiamoci un attimo, qual è la differenza fra la quarta e la terza? La terza è quella che abbiamo adesso, con questi gli EPR, la terza più, basata sui vecchi sistemi, sono dei reattori termici tranquilli. Nella quarta generazione ce ne sono di termici, ma ce ne sono anche di veloci, cioè come il vecchio Phoenix che è stato sospeso, e questi per me viaggiano a situazioni veramente al limite. Poi farli perché bisogna produrre dell'idrogeno direttamente dal nucleare, per me è assurdo, perché basta prendere il sole, ripeto, non costa niente, non abbiamo scorie ed è subito fatto. Ora, per me sono scuse inutili, sono d'accordo per le super tecnologie, ma sono dei grandi giochi, non possiamo permetterci ora, che non siamo sicuri del futuro, innanzitutto sono tutte cose sperimentali ancora, ci vorranno degli anni prima che si riesca a farne andare una come si deve, e poi bisogna avere, io non ho niente in contrario di usarle quando si ha l'esperienza di un centinaio di anni, allora mi va bene, alcune generazioni, per ora no, perché io sono contrario a queste nuove generazioni e ritengo che in Italia non che non possiamo fare attori, ma non abbiamo più il know-how sufficiente, ci vogliono dei decenni prima di ricostruire tutto quello che è stato distrutto nel passato. Infatti, come abbiamo detto prima e come abbiamo sentito poi peraltro dai vari ministri del nostro governo italiano, verranno costruite 4 nuove centrali EPR proprio qui in Italia. Tu te la sentiresti di fare un rapporto costi-benefici, come se stessi facendo una proporzione? Rispetto a che cosa? Al passato? Rispetto al passato, quindi rispetto ai vantaggi che potrebbero dare queste nuove centrali nucleari. Queste nuove centrali nucleari rispetto al passato hanno un'efficienza maggiore, hanno una potenza più alta. Non so se non ricordo male, da 1300 megawatt vanno a 1600 rotti megawatt di potenza, quindi una grande potenza immensa, hanno un tempo di riciclo del combustibile molto più lungo, quindi possono produrre, questo però va bene soltanto per il business, no? Possono produrre molta più energia per molto più tempo, hanno dei sistemi di sicurezza intrinseci molto più elevati, hanno delle protezioni notevoli e il costo mi pare che sia su più o meno tra i 3 e 4 miliardi di euro, sono cifre abbastanza notevoli e non posso dire che rispetto a quelli vecchi hanno una maggior sicurezza, maggior efficienza, producono anche meno scorie perché il combustibile è bruciato, scusate, quando dico bruciare non pensate a bruciare, parlo in senso nucleare, no? Sì, certo, sì. Viene utilizzato in una maniera molto molto migliore che in prima, quindi sono buoni. Però mi domando, ne abbiamo bisogno? Ecco, questa è la domanda. Io sono per queste bellissime macchine, però sono anche sicuro che andranno bene, però non vedo perché dobbiamo buttare un sacco di soldi in quel campo lì quando abbiamo fuori, non so, la mia polemica è prendiamo solo il solare, abbiamo più di 8.000 volte di più di quello che l'umanità ha bisogno, quindi per favore andiamo in quell'altra direzione, poi faremo queste centrali perché, non so, già accennavo ieri, però ne avremo bisogno ancora di queste centrali nucleari, sarà il backup del rinnovabile, ma lontano nel tempo, qualche generazione, noi non ne abbiamo bisogno ora. Tutta quell'energia che spendiamo ora per fare nuove centrali viene fatta a costo del petrolio, e il petrolio non è roba da bruciare, il petrolio è una preziosa materia prima per l'umanità. Vuol dire che il petrolio con cui verranno costruite le centrali nucleari praticamente abbatte alla fine la CO2 non emessa dalle centrali nucleari, giusto? No, questo no, perché poi le centrali nucleari viaggiano, queste qui addirittura nuove possono andare per 60 anni, quindi non è quello. No, noi però bruciamo una grande quantità di petrolio sacrosanto che è utile per tante altre cose. È assurdo continuare ad andare a pompare petrolio. È chiaro che brucia, però non è un combustibile, è una materia prima preziosa per la chimica, per tutto. Senti, quanto uranio è rimasto effettivamente sulla Terra? Quali sono le stime? Non te lo do in tonnellate, ma c'è un picco dell'uranio tra una ventina di anni, se tutto viaggia come adesso su questo uranio 235. Naturalmente, se passiamo alla quarta generazione, dove bruciano dell'uranio 238, lo trasformano in plutonio, poi usano il torio, eccetera. A parte che il torio, ecco, non ti ho parlato, ma è un altro elemento fissile che si può produrre anche nei reattori che esistono già ora, come il CANDU, che è un reattore con cui si può produrre benissimo dell'altro combustibile nucleare, dello stesso tipo che si può produrre in un reattore veloce. Voglio dire, non è necessario andare per forza alla quarta generazione per fare queste cose. Poi c'è un'altra cosa che forse non abbiamo il tempo di parlare, ma esistono anche gli ibridi fusione e fissione che possono produrre, partendo da altri materiali, possono produrre combustibile per reattori nucleari di questa generazione che conosciamo ora. Per me il massimo è l'EPR, è il massimo, e non andrei più oltre perché non è necessario. Senti, ma noi italiani abbiamo effettivamente la cultura, la tecnologia necessaria per costruire gli EPR, o dovremmo appaltare alla REVA e all'EDF, ecco, la costruzione di questi reattori? Perché questo è un altro aspetto del nucleare italiano. Certo, questa però è semplicemente la mia opinione dopo anni di esperienza, e ho sofferto perché ci sono nato da piccolo, non c'erano ancora reattori in Italia quando ho cominciato a fare del nucleare io, e vi garantisco che abbiamo sofferto moltissimo. C'era un grandissimo know-how, per esempio proprio nel campo dei reattori veloci, avevamo il professor Silvestri che ha fatto uno dei modelli più formidabili, ma ci hanno ammazzato, vuol dire, parlo psicologicamente, è stati bloccati, e quindi tutto il know-how che c'era se n'è andato via, è in giro per il mondo. Quello che c'è attuale, non mi risulta che nelle nostre università si parli ancora di nucleare dal punto di vista industriale. Quindi ci vogliono degli anni per ricostruire tutto. D'altra parte però ci sono i francesi, quelli che sono rimasti dei tedeschi, che hanno una conoscenza notevole, per cui comprare chiavi in mano da un francese, per questo è quello che succederà, la nostra gente non parteciperà se non altro con questione commerciale, e mi sono sicuro, perché per me mi fido, io la tecnologia francese la trovo buona. Per noi, io sostengo, mia opinione, insisto, che non abbiamo il know-how sufficiente, ci vorranno un paio di decenni, o almeno 10 anni per ricostruire il parco di cervelli necessari per seguire questo tipo di lavoro, che è estremamente sofisticato. Nazario, ti voglio fare un'ultima domanda prima di mettere il pezzo musicale e poi tornare in studio, perché c'è un sms molto, molto interessante a cui rispondere. Secondo te pagheremo di più l'energia prodotta con le nuove centrali nucleari costruite in Italia, oppure stiamo pagando di meno l'energia acquistata che quella prodotta in surplus dalla Francia? Ecco, questa è la domanda di quelle sibilline che però non abbiamo il tempo, è il problema del costo. Il compito mio è essere sibillino. Perché semplicemente io non credo nei costi in dollari, perché questi dipendono in dollaro, in euro, quello che volete, semplicemente perché questi costi passano attraverso le mani di tutto, dalla politica, dall'economia, dall'interesse delle varie banche, da tutto. Non è soltanto il costo reale di costruire una centrale, il vero costo di una centrale è la quantità di energia che serve per costruire la centrale e poi quanta energia mi ridà prima che la dobbiamo chiudere. Questo è il vero significato del costo, quindi un costo in energia. Io dirò che dal punto di vista del costo in energia sicuramente questi qui saranno buoni, e probabilmente, se la gente si mette la mano sulla coscienza, anche per il costo dell'energia poi all'utente, in questa volta in euro. Dipende, non puoi dare una risposta, perché dipende semplicemente dalla volubilità del mercato. Purtroppo l'energia è diventato, al posto di essere la soddisfazione di un diritto fondamentale dell'umanità, è diventato un oggetto di scambio. Nazareno, mettiamo un pezzo musicale, torniamo in studio, poi ci sarà questo sms a cui rispondere e poi ci salutiamo. Intanto ti ringrazio e poi ti ringrazierò dopo per la fine della trasmissione. Grazie. e bentornati a Caccia al Fotone. Nazario, intanto è arrivato anche un secondo messaggio. Allora, il primo è di Santo 61 che chiede: che fine hanno fatto le scorie nucleari prodotte fino all'87? Poi te lo dico in coda il secondo messaggio. Marco, siamo in grado di gestire le scorie nucleari prodotte dalle nuove centrali? Come vedi, l'argomento che interessa il pubblico è effettivamente le scorie nucleari. Va bene, per ora quasi tutte le scorie nucleari se ne stanno ancora dentro nei reattori stessi. All'interno dei reattori europei ci sono delle piscine, proprio anche protette come il reattore da accidenti esterni, dove si tengono questo combustibile spento. C'è ancora abbastanza spazio. Quando non ce n'è più, normalmente vengono trasportati in un centro di reprocessing. Cioè, per ora tutto il materiale o sta nel reattore o viene trasportato, per esempio in Europa, anzi il più grande del mondo, il centro di reprocessing di La Hague. No, è proprio nei pressi di Flamanville, tra l'altro, c'è un grandissimo centro là. L'altro cosa vi succede? Succede che tutto viene chimicamente sciolto, le bare vengono sciolte, naturalmente non è una cosa banale perché sono enormi quantità di radioattività, e viene separato in prodotti di fissione, quelli veramente duri che stanno lì un migliaio di anni, e quelli vengono incapsulati in palline di un vetro al boro speciale, ed è un volume estremamente piccolo, uno non si immagina quanto piccolo sia, e poi viene estratto il plutonio perché è un combustibile utile, si recupera tutto quello che c'è dentro, l'uranio esaurito, si prende il plutonio e lo si rimette in ciclo per usare quello che dicevo prima dei MOX, questi mixed oxide fuel, cioè uranio e plutonio assieme. Quindi le scorie per ora stanno tutte a casa loro. Poi c'è la faccenda, no, quando non ce la si fa più, ci sono dei grossi contenitori che stanno normalmente sul sito. Voi siete abituati a sentire parlare di Gorleben, di queste cose, ma questi sono casi particolari. È tutto previsto con questi contenitori che possono resistere a degli shock enormi, che stanno sul sito stesso del reattore, abbastanza molto guardati, anzi sigillati. Posso garantire che c'è sempre qualcuno che va a guardare che stiano lì, perché c'è sempre la possibilità di estrarre il plutonio, quindi sono un materiale strategico. Stanno a casa loro per ora. Allora, abbiamo risposto a questi due sms. Io intanto ti ringrazio per la pazienza e per essere intervenuto all'interno di Caccia al Fotone, soprattutto per esserti scontrato anche con sms probabilmente non molto in linea con il tuo pensiero, ma mi interessava molto il tuo pensiero, visto che sei un nuclearista, ma ritieni che il nucleare in questo momento soprattutto non ne abbiamo bisogno in Italia, quindi era la cosa che mi interessava di più. Io intanto ti ringrazio ancora una volta, ti auguro un buon lavoro. Credo che tu sia già in pensione, giusto? Sì, ma lavoro appunto per le energie rinnovabili, per propagandare questa idea. Ne abbiamo bisogno, e là fuori è moralmente importante andare verso energie rinnovabili. Andiamo piano con le robe vecchie, chiudiamo il passato, passiamo per il futuro. Nazareno, grazie ancora. Io saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia al Fotone e di Radio Città Fugico, e come al solito vi aspetto sabato prossimo, stessa ora, stessa radio. Una buona scienza a tutti, come al solito.